Sono le 20 ore locali, pari alle 18 ore di Greenwich, qui il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto, che trasmette sulla frequenza di 9.490 kHz, pari ad onde corte di 31 metri. Programma in lingua italiana a destinazione dell'Europa centrale. Dallo studio 33 di Radio Cairo vi augurano una buona sera alla tecnica Magdi Boshra e dal microfono Ameni Shahin. Cari ascoltatori, nel corso della trasmissione odierna potrete ascoltare alle 20.03 Bell'Egitto, alle 20.05 La metà della mela di Hanakhir, alle 20.15 il notiziario seguito da prima pagina di Ibtissam Abdelmegid. Segue alle 20.30 una canzone italiana. Alle 20.35 almanacco turistico di Hanakhir. Alle 20.40 ascolterete una selezione di canzoni arabe. Alle 20.50 panorama artistico di Heba Rashid. Infine alle 20.55 riepilogo delle principali notizie, seguito dalla presentazione del programma dell'indomani, e concluderemo come sempre con una canzone araba. Cari ascoltatori, vi presentiamo ora il meteo. Le temperature medie per il Cairo oggi sono state 30-15. Le temperature massime e minime per le città egiziane domani saranno il Cairo 32-14, Alessandria 27-15, Hurghada 29-21, Sharm el-Sheikh 30-22, Marsa Alam 28-22, Luxor 32-17 ed infine Aswan 33-18. Bell'Egitto. A cura di Sadia, Ola e Heba. La scelta dell'epoca per fare un viaggio in Egitto dipende soprattutto da ciò che si vuole vedere. Per viaggiare nell'Alto Egitto e Luxor l'inverno è il momento migliore. L'estate invece è il periodo in cui la costa mediterranea è più affollata, e tuttavia l'inverno al Cairo può anche essere molto freddo. I periodi più adatti a un viaggio in Egitto sono quindi la primavera e l'autunno, soprattutto da metà aprile a metà maggio, quando il clima è caldo ma sulle spiagge non si accalca ancora un numero insopportabile di corpi e il sole di mezzogiorno non è quello rovente della piena estate. Da marzo a ottobre metti in valigia sia abiti leggeri, sia scarpe e abbigliamento adatto per fare escursioni. Da novembre a febbraio maglioni e pantaloni lunghi per la sera e eventuali giornate meno miti. Non dimenticare il costume da bagno. Per le escursioni tipo Monte Sinai, mettere in valigia abiti pesanti. Per escursioni nel deserto, munirsi di copricapo e occhiali per ripararsi dal vento e dalla sabbia. Bell'Egitto di Ola Samir. Da Radio Cairo vi presentiamo La metà della mela. Programma curato da Hanakhir. Amici di Radio Cairo, buonasera. Persino la Svezia, di sicuro uno dei paesi più avanzati nel campo della parità dei sessi. Quando si tratta di donne, in ricerca si ferma a percentuali da paese latino, superando di poco il 35%, una cifra simile a quella egiziana. Il problema di un maggior accesso delle donne ai laboratori riguarda tutto il mondo e, secondo le iniziative Un Woman in Science Working Group, un gruppo di ricercatori e ricercatrici che lavorano negli USA, servono nuove strategie per superare gli ostacoli attuali, proponendo 7 iniziative che potrebbero invertire la tendenza, dedicate alle donne in scienza, medicina ed ingegneria. Le azioni richieste iniziano da un maggior supporto finanziario realizzabile, dando la possibilità ai ricercatori di spendere una parte dei finanziamenti per la cura della famiglia e permettendo l'assunzione di mani extra nei laboratori, dai tecnici a studenti che possono portare avanti gli studi senza interruzioni quando la ricercatrice è alle prese con i problemi legati alla famiglia. Accanto al supporto finanziario, spiega l'articolo, serve anche quello psicologico e culturale. I comitati che revisano le ricerche dovrebbero avere una parità di genere nei componenti ed i bandi per i finanziamenti contenere delle precise norme contro il sessismo occulto che fa sì che le ricerche portate avanti dalle donne siano giudicate peggiori di quelle degli uomini. Le istituzioni accademiche, aggiungono le autrici dello studio, dovrebbero educare i propri componenti a riconoscere i problemi che le donne affrontano nel mondo scientifico e nella medicina, ad esempio nei programmi di orientamento. A completare le iniziative di apprendere suggerite ci sono la compilazione da parte di istituzioni ed enti di ricerca di report sulla parità di generi pubblici e la preparazione di database di donne ricercatrici. Che il problema sia globale lo testimoniano tutte le ricerche fatte in questo campo. Secondo i dati dell'Istituto di Statistica dell'UNESCO, la media globale dei ricercatori donna è appena del 30%, con solo un paese su 5 che ha raggiunto la parità. Consumare più di 5 grammi di sale al giorno, e questa è la raccomandazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dopo che è stato ampiamente dimostrato che il consumo eccessivo di sale nell'alimentazione è responsabile del sviluppo di malattie cardiovascolari, tumori e malattie renali. La riduzione del sale nell'alimentazione è una priorità dell'Organizzazione della Sanità nell'ambito delle strategie di prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, nonché uno degli obiettivi perseguiti dal Ministero della Salute con il programma Guadagnare Salute, rendere facile le scelte salutarie, ribadito nel nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili. Grazie al primo progetto del Centro di Controllo delle Malattie CCM del Ministero della Salute è emerso negli uomini un consumo di 10,8 grammi di sale e nelle donne un consumo di 8,4 grammi. Nei ragazzi esaminati di età compresa fra l'8 e l'11 anni i valori media di consumo sono risultati al di sopra delle raccomandazioni dell'Organizzazione della Salute: 7,4 grammi nei ragazzi, 6,7 grammi nelle ragazze. L'organizzazione: consumare più di 5 grammi di sale al giorno fa male alla salute. Servono solo idee stravaganti e complicate per far grande il mondo e capire come aiutare gli altri. Basta che una donna grandi guardi negli occhi un'altra donna. In arabo, Innasim significa prezza del mattino, risveglio ben augurale. Ora è naturalmente non a caso è il nome di un'associazione di donne provenienti dai diversi paesi del Mediterraneo. Hanno scelto di iniziare un cammino comune, creare uno spazio in cui aiutarsi o semplicemente incontrarsi per condividere quotidianamente i piccoli grandi momenti della loro vita. Annasim non è un'associazione che lavora per gli stranieri, ma insieme con loro, promuovendo attività che mettano in evidenza le loro abilità e il loro sapere. Promuove simbolo di pace. Li ha ritrovati nei momenti di vita quotidiana di queste donne, dalla preparazione dei cibi alle decorazioni con le henne, dai tappeti alle ceramiche. La ricchezza dell'iniziativa come quella di Annasim è una ricchezza politica. Lavorare sulle donne arabe, aiutarle ad integrarsi, significa dar una mano anche ai loro figli che domani saranno gli adulti della nostra società. Le donne arabe sono il tesoro della loro terra. Sono capaci di lavori straordinari. Hanno un'abilità manuale impensabile per una donna occidentale, almeno quelle delle ultime generazioni. Sono bravissime a cucinare, a ricamare, ad usare le henne ed i loro tappeti fanno restare senza fiato. Sono velocissime nella tessitura ed il risultato prende vita piano piano. Di cui avete ascoltato La metà della mela, curato e presentato da Hanerhi. Sono le 20:15 qui il Cairo, radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto. Vi invitiamo ora all'ascolto del notiziario. cominciamo con i titoli delle principali notizie. Il presidente Sisi afferma che il popolo e le sue istituzioni sono capaci di preservare gli interessi della patria. Il governo palestinese è pronto a tenere le elezioni entro 3 mesi se Hamas d'accordo. Le organizzazioni umanitarie iniziano a distribuire i primi aiuti in Yemen. Tensioni in Burundi, teatro di un golpe militare. Ed ora le notizie in dettaglio da Radio Cairo. Il presidente Abdel Fattah el-Sisi ha affermato oggi che il male non potrà recare danno all'Egitto finché tutti i cittadini saranno attenti, inaugurando oggi alcune fabbriche delle forze armate per la produzione di veicoli militari e pezzi di ricambio. Il capo dello Stato ha affermato che il popolo egiziano e le sue istituzioni sono capaci di preservare gli interessi della patria e garantire il futuro per le nuove generazioni. Il presidente Sisi ha sottolineato che l'Egitto realizzerà progressi solamente attraverso il lavoro, la cooperazione tra tutti i responsabili in seno alle diverse istituzioni e l'apertura di un dialogo con i giovani sull'avvenire del paese. L'Egitto aspira alla cooperazione e al coordinamento con la Gran Bretagna per ripristinare la sicurezza e la stabilità in Medio Oriente e per sradicare il terrorismo. Lo ha ribadito il presidente Abdel Fattah el-Sisi nel corso di un contatto telefonico con il primo ministro britannico David Cameron. Il capo dello Stato si è congratulato con il premier britannico per la sua vittoria alle recenti elezioni e l'ha invitato per assistere alle festività che saranno organizzate in Egitto agosto prossimo in occasione dell'inaugurazione del nuovo canale di Suez. Dal canto suo, Cameron ha affermato il suo impegno a rafforzare la cooperazione bilaterale ed incoraggiare gli investimenti britannici in Egitto. La conversazione telefonica si è incentrata anche sul conflitto in Libia. Il presidente Sisi ha ricevuto oggi l'inviato ciadiano Mohammed Saleh al-Nadif, che le ha consegnato un messaggio del suo omologo ciadiano Idriss Déby. Il messaggio si è incentrato sui mezzi atti a promuovere le relazioni bilaterali nei diversi settori. Il capo dello Stato ha inoltre ricevuto la direttrice dell'UNESCO Irina Bokova, che ha sottolineato il ruolo primordiale dell'Egitto nel mondo arabo ed islamico, nonché la sua cultura ed il suo patrimonio che testimoniano una ricca civilizzazione. La Bokova ha inoltre espresso il suo apprezzamento per gli sforzi compiuti dalla direzione egiziana in tutti i settori. La Bokova è in visita al Cairo per partecipare alla conferenza internazionale di 2 giorni sulla protezione del patrimonio classificato e dei siti archeologici di fronte al vandalismo di organizzazioni terroristiche come l'ISIS. Tutte le tribù libiche influenti del nord, del sud e dell'est sono state invitate alla riunione che si svolgerà al Cairo a partire dal 25 maggio e che per 3 giorni vedrà riuniti i leader tribali libici allo scopo di trovare una via d'uscita alla crisi in Libia. È quanto dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri Badr Abdelati. La conferenza mira a creare il maggior consenso possibile tra le tribù libiche, spiega Abdelati, sottolineando che il ruolo dell'Egitto è quello di ospitare l'evento e fare in modo di creare il maggior accordo possibile tra le tribù riunite. Siamo per una soluzione pacifica in Libia e sosteniamo un governo d'unità nazionale, aggiunge il portavoce. Il governo d'unità nazionale palestinese è pronto a tenere elezioni presidenziali e legislative nel giro di 3 mesi se Hamas e tutte le fazioni sono d'accordo. È quanto ha dichiarato il premier palestinese Rami Hamdallah. In un incontro con una delegazione parlamentare svizzera, Hamdallah ha sottolineato che l'ANP sostiene la soluzione dei 2 stati e dà il benvenuto alle iniziative internazionali di emettere una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per stabilire un'agenda per la fine dell'occupazione e la creazione di uno Stato palestinese indipendente secondo i confini del 1967 e con capitale Gerusalemme Est. Hamdallah ha espresso l'auspicio che la comunità internazionale possa svolgere un ruolo efficace nel fare pressioni su Israele affinché si impegni per il raggiungimento della pace e ponga fine agli insediamenti e alle sue violazioni contro i palestinesi, soprattutto a Gerusalemme. Sono le 20:20. Da Radio Cairo siete all'ascolto del notiziario. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è impegnato oggi a completare la formazione del suo governo con l'assegnamento di 12 dei 20 dicasteri fra deputati del Likud. La Knesset, Parlamento, è stata convocata stasera per la cerimonia di giuramento, ma alcuni esponenti del Likud sono insoddisfatti degli incarichi offerti loro da Netanyahu. La composizione dell'esecutivo risulta dunque più complessa del previsto e non è escluso che il giuramento slitterà a lunedì. Una quarantina di civili, e tra i quali 17 bambini e ragazzi minorenni, sono stati uccisi in bombardamenti compiuti da jet ed elicotteri governativi ieri su alcune località della provincia di Aleppo, nel nord della Siria, controllate da forze ribelli. Lo riferisce oggi l'Ongo Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani ONDUS. Attivisti locali confermano gli attacchi avvenuti in un'area normalmente tranquilla sud di Aleppo, precisando che il maggior numero di vittime si è avuto a Aiz. Dopo aver devastato diversi siti archeologici in Iraq, i terroristi dell'ISIS ora minacciano Palmira in Siria, dichiarata dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. E l'allarme lanciato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani dopo la sconfitta dei soldati del regime di Bashar al-Assad nei pressi del sito archeologico. A Palmira si trovano le rovine di una grande città, considerata uno dei principali centri culturali del mondo antico. I suoi templi ed il colonnato, celebri in tutto il mondo, sono in pericolo se l'ISIS dovesse arrivarci, replicando le distruzioni compiute a Nimrud e Hatra in Iraq. Proprio per affrontare questa minaccia è in corso al Cairo una conferenza internazionale. Il direttore delle antichità siriano, Ma'mun Abdul Karim, ha confermato la minaccia. Se la città cade, sarà una catastrofe internazionale. Mentre le organizzazioni umanitarie hanno iniziato a distribuire i primi aiuti ai civili in Yemen, la coalizione saudita araba ha riportato alcuni casi di violazioni del cessate il fuoco nel suo primo giorno di validità. Secondo una dichiarazione ufficiale, le milizie Houthi avrebbero violato la tregua per 12 volte. Da parte sua, il portavoce del Dipartimento di Stato americano Jeff Rathke ha dichiarato che la tregua in generale sta reggendo, benché abbia ricevuto notizie di alcuni scontri a poche ore dalla sua entrata in vigore. Tensione a Bujumbura, capitale del Burundi, teatro ieri di un golpe annunciato dai militari contro il presidente uscente Pierre Nkurunziza. Secondo la BBC Online, gruppi rivali di soldati si stanno fronteggiando per il controllo della capitale. Violenti scontri si sono verificati all'edificio della radio di Stato. Le trasmissioni sono state interrotte più volte. Alcune fonti hanno riferito che i soldati fedeli al presidente controllano i quartieri strategici della città, compreso l'aeroporto. Centinaia di miliziani Boko Haram hanno tentato l'assalto della più grande base militare nel nord-est della Nigeria a Maiduguri, incontrando però la forte resistenza dell'esercito, che ha risposto al fuoco con artiglieria pesante per tutta la notte. Centinaia di persone sono fuggite nelle zone vicine. Da diverse settimane l'esercito nigeriano, assistito da una forza multinazionale, ha cacciato Boko Haram da tutte le città, costringendoli a rifugiarsi nella foresta di Sambisa. Cinque imbarcazioni iraniane hanno sparato questa mattina colpi da avvertimento davanti alla prua di una nave cargo battente bandiera di Singapore nel Golfo. Lo ha riferito un funzionario USA alla CNN. I colpi sono stati sparati mentre la nave era all'altezza delle coste degli Emirati Arabi Uniti. A quel punto, il comandante ha cambiato rotta, entrando nelle acque degli Emirati e riuscendo ad allontanarsi apparentemente e senza altre conseguenze. Il Pentagono sta raccogliendo informazioni. Massacro talebano in un residence di Kabul frequentato da stranieri. Il bilancio è di 14 morti, tra cui l'italiano Alessandro Abbati e diversi feriti. L'attacco alla foresteria, al cui interno c'erano numerosi stranieri, è stato rivendicato dai talebani. Tra le 14 vittime, anche 4 indiani, uno statunitense e diversi afghani. E la conferma, come ha detto il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, che la situazione nel paese è ancora molto complicata. L'attacco ha messo a ferro e fuoco l'hotel nel centro della capitale, dove si trovano anche un complesso delle Nazioni Unite, varie ambasciate e diverse foresterie. Cari ascoltatori, con questa notizia termina il notiziario di oggi da Radio Cairo. Arrivederci. Radio Cairo vi presenta. Prima pagina. Programma curato da Ebtisam Abdelmegid. Buonasera carissimi amici, ben ritrovati al nostro giro giornalistico nella stampa italiana. Cominciamo con Panorama e leggiamo. Il segretario generale della Commissione permanente per le antichità egiziane ha recentemente approvato la ricostruzione di una delle più celebri tra le sette meraviglie del mondo antico. La struttura originale fu costruita dalla dinastia tolemaica tra fine IV e inizio III secolo a.C. sull'isolotto di Faro di fronte al grande porto di Alessandria d'Egitto. L'opera tradizionalmente attribuita all'architetto greco Sotrato di Cnido venne iniziata durante il regno di Tolomeo I e i lavori furono ultimati dal successore Tolomeo Secondo Filadelfo. Con un'altezza di circa 134 metri, il faro di Alessandria fu per secoli l'edificio più alto mai realizzato dall'uomo. Giuseppe Flavio, storico romano di primo secolo d.C., riporta nei suoi scritti che la torre era visibile da ben 48 km di distanza. Il faro prototipo di tutte le costruzioni simili successive, di giorno guidava le navi in porto riflettendo la luce con un sistema di specchi di bronzo lucidato, mentre di notte veniva acceso un fuoco nella fornace posta sulla sommità della torre. Il sistema di specchi ideato per aumentare l'intensità del fascio di luce riflessa è considerato una delle massime realizzazioni dell'elevato livello tecnologico raggiunto dalla scienza ellenistica. Passiamo ora a TTG Italia, che sotto il titolo Astoi pensa ad una campagna TV per l'Egitto, ha scritto: un investimento promozionale a più voci sull'Egitto, possibilmente con una campagna televisiva. È quel che sta progettando Astoi in collaborazione con l'ente del turismo egiziano per accendere i riflettori sulla destinazione in vista dell'alta stagione, facendole riguadagnare terreno dopo i rallentamenti causati dai fatti di Tunisi. Al momento investiamo per tenere aperta la destinazione e mantenere i voli, conferma Luca Battifora, presidente Astoi. Senza Egitto manca un pezzo e soprattutto abbiamo un cliente perso. Sempre con TTG Italia e per concludere leggiamo questa statistica. Sono segnali concreti di ripresa quelli che giungono dall'inbound internazionale in Egitto nei primi mesi di quest'anno. L'ultimo bilancio pubblicato dall'Agenzia Centrale di Statistica del Paese indica infatti per il mese di marzo un incremento di arrivi di 10,6 punti percentuali rispetto all'analogo periodo del 2014, dai 754.700 dello scorso anno. I turisti nel paese sono passati a 834.600, un'accelerazione che ha nell'Europa occidentale il suo principale motore, dal momento che quest'area ha contribuito al 37,8% del totale turisti. Segue l'Europa orientale con uno share del 37,3%, mentre i medio orientali rappresentano il 13,7% del totale arrivi. Durante il 2014 i ricavi derivanti dal comparto sono saliti a 7,5 miliardi di dollari, ancora ben al di sotto dei 12,5 miliardi incassati nel 2010. Cari ascoltatori, da Radio Cairo vi abbiamo presentato Prima Pagina, la segna stampa curata da Ebtisam Abdelmedin e presentata oggi da Amenice. Cosa vuole? Indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto. Tornare indietro un anno, un giorno, per vedere se per caso c'eri. E sentire in fondo al cuore un suono di cemento. Mentre ho già cambiato uomo un'altra volta. Come si cambia per non morire? Come si cambia per amore? Come si cambia per non soffrire? Come si cambia per ricominciare? Con gli occhi verdi e brilli, sei tu il 2000 certo che verrà, acide la pioggia sopra le mie spalle nude, e dentro un taxi nella notte, avere freddo e non sapere dove, sopra un letto di bottiglie rotte strapazzarsi il cuore, e giocare a innamorarsi. Radio Cairo vi invita all'ascolto di Almanacco Turistico. programma a cura di Hanè Khir. Carissimi amici, buonasera. L'IBAB CNR ha sviluppato nell'ambito del progetto ProCult un'applicazione che partecipava per la salvaguardia del patrimonio culturale. L'app Sever consiste nel segnalare le problematiche che interessano i monumenti a seguito di eventi naturali, atti vandalici o degrado. Una volta scaricata l'app, il cittadino può segnalare le problematiche scattando foto del danno fino a 3, acquisire le coordinate spaziali del monumento, inviare una segnalazione di server del IBAM CNR, vedere le segnalazioni di altri cittadini, memorizzare la segnalazione sul proprio dispositivo in assenza di rete. L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini nella difesa dei monumenti ed informare le istituzioni preposte alla tutela per intraprendere azioni di ripristino. Un'equipe dell'Università Spagnola di Gent ha scoperto quello che le autorità egiziane hanno catalogato come il caso più antico di tumore al seno, tra i resti di una donna che si presume appartenesse alla sesta dinastia faraonica, 2200 a.C., nella necropoli di Qubbat el-Hawa, ubicata sulla riva occidentale della città di Aswan. È stato rinvenuto tra gli altri lo scheletro di una donna adulta sul cui seno sono stati individuate deformazioni insolite. Ciò ha spinto gli archeologi ad approfondire le ricerche, le quali hanno rivelato che si trattava di tumore. Questo dimostrerebbe che questa patologia esisteva già nei periodi più antichi dell'Egitto. L'antropologo spagnolo ha dichiarato che le lesioni e l'alto degrado di deterioramento individuate anche sul cranio e nella zona del bacino indubbiamente sono la causa del prograrsi del tumore nelle ossa della donna. Afferma inoltre che lo stato in cui è stato rinvenuto il suo scheletro indica che la donna era aristocratica, apparteneva alle alte classi sociali dell'antica città di Elefantina, la quale sicuramente poté ricevere tutte le attenzioni e le cure necessarie fino alla sua morte. Il cancro è al giorno di oggi una delle principali cause di morte a livello mondiale e la sua assenza di registri archeologici ha portato alla convinzione che il tumore fosse principalmente attribuibile a uno stile di vita moderno. Però questa scoperta, unitamente alle prove rinvenute l'anno scorso dai ricercatori britannici di un cancro con metastasi nello scheletro di un uomo di 3.000 anni nella tomba dell'odierno Sudan, suggeriscono che la patologia già esisteva anticamente nella valle del Nilo. Da Radio Cairo avete ascoltato Almanacco Turistico, curato e presentato da Hanè Khir. اسكندريه عندي موجة على صدري موجة والبحر هوجة والصدمة طايب أغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية أغسل هدومي يا اسكندرية وانشر همومي يا اسكندرية على شمسة طالعة وأنا فيها أنا فيها دايم Thank you. اشرب لك تعزير من يا حبيبتي بنت اكتوبر شهر ونصر عزيز من يا حبيبتي بنت اكتوبر شهر ونصر عزيز مصر يا احلى اسم ناديته اوله حرف الميم مصر يا اغلى من حبيته بضرب لك تعزيم من يا حبيبتي بنت اكتوبر شهر ونصر عزيم من يا حبيبتي بنت اكتوبر شهر ونصر عزيم تسعد بلدي بلدي والوعد بلدي بلدي والمهد بلدي بلدي انا بتعلم ليه علشان عزك قول ان شاء الله ويقدرني عليه علشان عزك قول ان شاء الله. Da Radio Cairo vi presentiamo Panorama Artistico. Cura di Heba Rashid. Cari ascoltatori, benvenuti ad una nuova puntata del vostro programma Panorama Artistico, in cui tratteremo le più recenti notizie culturali ed artistiche in Egitto, nella puntata di stasera. Il Centro di Autenticazione del Patrimonio partecipa alla conferenza scientifica del Museo Nazionale di Suez. La corale degli autisti partecipa ad un concerto a Saqit Essowi, sfilata al centro russo. Cari ascoltatori, il Centro di Autenticazione del Patrimonio Culturale e Naturale, uno dei centri di ricerca della Biblioteca d'Alessandria, ha partecipato ai lavori della conferenza scientifica del Museo di Suez, ciò attraverso la proiezione del film La battaglia di Kodesh, una delle più celebri battaglie nell'epoca antica. Il centro ha anche partecipato ad uno spettacolo che ha applicato il sistema interattivo di una delle applicazioni degli spettacoli museologici. Secondo questo sistema, che risponde alle più sofisticate tecniche interattive, il visitatore può effettuare una visita virtuale dei siti antichi. Da notare che la conferenza è stata preparata da diversi mesi da una squadra di lavoro del Museo di Suez e la zona delle antichità di Suez e del Nord Sinai, nonché da un buon numero di esperti del settore dei musei e dell'organo del canale di Suez. Per la prima volta una corale formata da giovani artisti autistici partecipa ad un grande concerto tenuto a Saqit Essowi e ciò nel quadro dell'integrazione di persone autistiche nella comunità. Da notare che la partecipazione della corale Taqaddum o Progresso è formata da gente affetta dall'autismo nello spettacolo El Ghad o Domani. È venuta dopo una tale convenzione delle capacità della corale e il talento notevole dei suoi membri, nonché una dichiarazione dell'opinione generale che gli autistici dispongono di potenzialità e di talento unici e che possono affascinare la loro cerchia se gli si dà l'occasione. Il Centro Culturale Russo ha organizzato una sfilata della celebre stilista Noria al Teatro Tchaikovsky al Centro Culturale Russo del Doke. 15 ragazze russe e egiziane hanno partecipato alla sfilata, che ha raggruppato gli ultimi modelli per l'estate 2015. A tale evento hanno partecipato diplomatici egiziani, media russi ed egiziani, nonché un gran numero di artisti egiziani. Da notare che la celebre stilista Noria è venuta dall'Armenia verso l'Egitto per proseguire il suo percorso creativo in questo campo. Infatti, Noria appartiene ad una famiglia di artisti. Ha iniziato la sua carriera come ballerina del folklore armeno. Il 2007 ha testimoniato una nuova svolta nel suo percorso nel mondo della moda, ha aggiunto l'apice della sua celebrità nel 2008, quando le sue creazioni vennero selezionate come le migliori in Armenia in quell'anno. Noria ha partecipato alle sfilate in molti paesi. Nel 2010 incontrò l'uomo della sua vita, si sposò con un egiziano di origine armena e si è stabilita in Egitto. Cari ascoltatori, da Radio Cairo vi abbiamo presentato Panorama Artistico, un programma curato da Heba Rashid e presentato oggi da Ameni Shahin. Nella sventura non ti colga sgomento, per te non sorga il giorno che alla tua gioia sia compenso di dolore. Ah, quante volte un malefico vento ti colse, ma il soave profumo risaturò subito l'aria. Il nembo spesso sovrastò minaccioso, ma fu disperso prima che dal grembo scuro si scatenasse orribile tempesta. Ah, quanto fumo si levò che non fu fiamma. Dal Radio Cairo va ora in onda i titoli, il riepilogo delle principali notizie. Il presidente Sisi afferma che il popolo e le sue istituzioni sono capaci di preservare gli interessi della patria. Il governo palestinese è pronto a tenere le elezioni entro 3 mesi se Hamas d'accordo. Le organizzazioni umanitarie iniziano a distribuire i primi aiuti in Yemen. Tensioni in Burundi, teatro di un golpe militare. Cari ascoltatori, ora e prima di lasciarvi all'ascolto della canzone araba conclusiva, vi faccio un breve riassunto dei programmi dell'indomani che saranno presentati da me, Ameni Shahin. Alle 20 ci sarà l'apertura, alle 20.03 Bell'Egitto, alle 20.05 Benvenuti nel mondo arabo, alle 20.15 il notiziario seguito dal dossier economico di Esser Ahmed, segue alle 20.30 una canzone italiana, alle 20.35 cronaca sportiva di Ola Samir, alle 20.40 il Sinai tra storia e gloria di Mahmoud Meher Toha, alle 20.45 usi e costumi di Nibel Nosir, alle 20.50 l'uomo nel Corano di Hassan El Kabir ed infine alle 20.55 il riepilogo delle principali notizie seguito dalla presentazione del programma dell'indomani e concluderemo con una canzone araba. Amici di Radio Cairo, augurandoci che i nostri programmi siano stati il vostro gradimento, vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 20 ora locale, pari alle 18 ore di Greenwich. Dallo studio 33 di Radio Cairo vi salutano alla tecnica Magdi Boshra e dal microfono Ameni Shahin. Arrivederci. La sventura non ti colga sgomento. per te non sorga il giorno che alla tua gioia sia compenso di dolore. Ah, quante volte un malefico vento ti colse, ma il soave profumo risaturò subito l'aria. Il nembo spesso sovrastò minaccioso, ma fu disperso prima che dal grembo scuro si scatenasse orribile tempesta. Quanto fumo si levò che non fu fiamma, sì forte e sereno anche nei giorni dell'avverso fato. In un canneto un vento asciutto e svogliato portava insieme confusi e inutili pensieri. Quante volte, alzando gli occhi al cielo, spinte dalle correnti, ho visto le nuvole vagare. La sera insegna ad attendere il giorno che arriva come sempre a chiudere i passaggi della notte. Glorious light, wisdom without bound, wrapped in eternal solitary shade. Impenetrable gloom of light intense, impervious, inaccessible, immense.